Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Stiamo lavorando a inchieste e reportage, trasmetteremo una lunga indagine sulla mafia in Italia, dai certificati antimafia ai beni confiscati ai boss, fino a 3 puntate sul riciclaggio del denaro sporco in Italia. E ora cedo la linea a Piera Ceci per Scuola in Controluce. Scuola in Controluce. Da Wall Street ad Atene, da Madrid a Roma, la protesta degli indignati dilaga. Indignati contro il sistema politico, indignati contro il sistema economico. Entrambi all'origine di una crisi che ora presenta il conto a tutti. È una costola importante del movimento e nel mondo della scuola. Domani saranno molte le manifestazioni e non solo in Italia. A Torino, a fianco degli studenti, i lavoratori della Fiat. All'Aquila, ancora piegata dal terremoto e da una ricostruzione troppo lenta, docenti e ragazzi in piazza per chiedere almeno la restituzione degli organi dello scorso anno. Ad Adro, nel Bresciano, la cittadina nota per la scuola targata Lega, i Cobas chiederanno maggiore rispetto per la scuola pubblica. A Venezia, dal piazzale della stazione, partirà un corteo di barche sul Canal Grande che arriverà alla direzione scolastica regionale. In Puglia la protesta si rivolgerà anche contro la decisione della provincia BAT, Barletta Andrea Trani, che vorrebbe introdurre la pubblicità delle aziende e dei marchi industriali in cambio di finanziamenti. Federico Nastasi, coordinatore della rete universitaria nazionale. La giornata di domani è importante perché sarà una piazza, ci sono piazze convocate in tutta Europa e in tutto il mondo, anche negli altri continenti. La piazza di Roma certamente avrà le sue difficoltà, le sue complessità, come tutte queste manifestazioni molto grandi, molto, molto partecipate, però stiamo lavorando, stiamo organizzando il nostro gruppo insieme alle altre associazioni che partecipano per garantire il diritto di manifestare e garantire insomma la buona riuscita della manifestazione. Deve essere una manifestazione pacifica, su questo non c'è dubbio? Il rischio è che rispetto alla manifestazione di domani, in generale, il rischio di queste manifestazioni di carattere prevalentemente giovanile che hanno riempito tutte le capitali europee anche in passato, mi viene in mente la vicenda di Londra degli studenti inglesi quest'estate, è che appunto l'equazione che si porta avanti è la politica non serve, gli stati sono governati da istituti privati e dalle banche, quindi spacchiamo le vetrine. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è provare a metterci un po' di politica in questa cosa. Quindi parole e non sassi. Prospettive, parole non vuote, prospettive, un orizzonte ampio, soprattutto un orizzonte per provare a dare un orizzonte alla nostra generazione, che è quello che manca in questo momento. Ecco, come rappresentante della rete universitaria nazionale, di che prospettiva parli per quanto riguarda proprio gli studenti delle varie facoltà universitarie? Rispetto alla manifestazione di domani, alla manifestazione di sabato, noi abbiamo aderito nella convinzione che il carattere europeo della mobilitazione sia un balzo in avanti che ha fatto il movimento studentesco, il movimento giovanile, in qualche modo anticipando anche la politica, perché si coglie la profondità del problema, la soluzione al problema non può risiedere negli stati nazione, negli stati nazionali, e quindi si dà una prospettiva di carattere più ampio. Noi quello che chiediamo per quanto riguarda l'università è di andare a finanziare un'università di carattere pubblico più autonoma di quella che viene disegnata dalla legge, finanziamenti per il diritto allo studio, investimenti in internazionalizzazione sulla didattica in generale, come giovani, forme di welfare e di stato sociale più forte. Mi sembrano parole d'ordine comune a tutte le piazze in questo momento, tutte le piazze in Europa. Indignati dunque gli universitari, indignati anche gli studenti delle superiori. Dario Costantini, portavoce della Federazione degli Studenti. Perché da 3 anni oggi, ma anche da più tempo, la scuola oggi ha subito un depauperamento totale, strutturale, e il governo e il neoliberismo di oggi non ritiene che la conoscenza, non ritiene che il sapere siano insieme al lavoro il paradigma per lo sviluppo. Noi invece su questo ci indigniamo, e dall'indignazione, che non basta, come diceva Ingrao, proponiamo invece un'alternativa di campo che poggi sulla conoscenza, sul lavoro per lo sviluppo, quindi sulla scuola e sulla formazione e sulla conoscenza in generale. Ecco, voi dite no al sistema dei saperi disegnato dal duo Gelmini-Tremonti. Che scuola stanno lasciando? Loro stanno lasciando una scuola che sostanzialmente nella didattica rimane la scuola disegnata da Gentile. Nei finanziamenti è una scuola più povera di quella di un tempo, è una scuola che trova nell'edilizia, nell'accesso, in termini di trasporti, in termini di accesso anche ai luoghi del sapere, una depauperazione assoluta. Noi riteniamo che questo non possa essere accettabile, che non si possa più accettare nel nuovo millennio una scuola fondata su quel sistema lì, su un sistema fondamentalmente gerarchizzato, sulla gerarchizzazione dei saperi. Noi chiediamo una scuola che sia interattiva, che non si fondi esclusivamente sul docente e il discente. Ecco, domani si temono incidenti. Voi potete garantire invece di voler mantenere la calma, di voler anche isolare gli eventuali violenti che si dovessero presentare in manifestazione? Noi domani scenderemo in piazza con la chiara volontà di scendere pacificamente in piazza. Non siamo non siamo facinorosi, non siamo persone che pretendono di adottare la violenza prima di una rottura chiara da parte delle istituzioni democratiche. Noi crediamo che su un progetto non violento si possa continuare nei processi democratici a cambiare questo paese. Faremo anche un servizio d'ordine e proveremo fino in fondo a evitare deviazioni violente del corteo. Speriamo dunque che domani vada tutto bene. Intanto abbiamo girato le richieste degli studenti a Valentina Prea, presidente della Commissione Cultura della Camera e deputata del PDL. Loro hanno ragione, noi stiamo creando un paese sempre più per vecchi e un paese che è fermo nei suoi privilegi delle generazioni passate, insomma, ecco. Allora, questo dobbiamo fare. Sono molto più preoccupata se i ragazzi non percepiscono da parte nostra queste attenzioni. Ecco, ma queste sono le stesse perplessità dei ragazzi, quindi voi che siete al governo e comunque fate le leggi, dovreste in qualche modo rispondere a queste esigenze. Allora, nel desiderio, nell'ambizione possono essere previste per legge con decreti, attraverso decreti. Però il diritto allo studio per tutti, c'è un modo, c'è un modo. Intanto, ecco, io penso ai fondi per il merito che sono stati previsti per iscriversi alle università di eccellenza, anche se non si hanno le possibilità o si vive in una città diversa da quella in cui queste operano. Quindi più che io, se fossi al posto loro, se avessi la loro età, protesterei per questo. Allora, mentre capisco la loro indignazione, non mi piace l'unico modo che loro scelgono. Non condivido la violenza, non condivido la piazza, non condivido, ecco, mi piacerebbe che loro protestassero protestassero nel senso, si imponessero, ecco, con le loro intelligenze, con le loro capacità e i loro talenti, dove sono, nelle scuole, nelle università, e noi dobbiamo prestare più ascolto. Ecco, loro dicono saranno in piazza domani anche per ribadire il no al sistema dei saperi disegnate dal duo Gelmini-Tremonti. No, questa è una solita polemica strumentale, non lo capisco, non posso accettarla. Ringraziami Dio d'avere ancora un sistema pubblico di istruzione e accademico. Altri paesi non se lo potranno più permettere, ancorché occidentali, ed è sempre tanto quello che noi riusciamo a garantire nonostante situazioni di deficit e di debito pubblico. Quindi io sulla quantità sarei, come dire, ampiamente soddisfatta. Magari potrei accogliere qualche critica sulla qualità, ma per quello ci dobbiamo lavorare insieme, ci devono credere anche loro. Italia in Controluce, la seconda edizione, torniamo lunedì alle 6:30 su Radio 24.